Direi che sono le 8? Sì, beh, 8 e 18 secondi. La nostra colazione in diretta fino alle 9. La tua colazione, rock. Siete in squadra con noi? Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Squadra composta dall'Ariele, Spadino, Fricantoni e basta, perché la redazione ci ha mollato. Ma guardate, freak, incredibile. Puntata 173, giovedì 31 gennaio 2008, l'anno della svolta. Ah, la prima ora è andata malissimo, quindi guarda, puntiamo a riprenderci nella seconda. E non annuncio nulla, perché ci sono un po' di sorprese che scoprirete restando incollati. Vi ricordo che non è oggi la giornata di Zorrock, è domani, per chi la stesse aspettando. Cos'è Zorrock? La nostra radionovela, non ne avevate mai sentito parlare. Vabbè, restate con noi. Iniziamo con il brano del buon Mox Cristadoro, Poco, Flying Solo, un po' di country rock come si deve. Restate con noi. Italia. La informiamo che i suoi dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Che dati? Per conoscere l'informativa sulla privacy, prema asterisco. Altrimenti, attende in linea. Attendiamo in linea tutta la vita. Sì, dai. Ci fidiamo, ci fidiamo. Digitare 1 se desidera parlare con gli uffici amministrativi o con il centralino di BMW Italia. Digitare 2 se si desidera parlare con il servizio clienti BMW. Digitare 3 se si desidera parlare con il servizio clienti Mini. Digitare 4 se si desidera parlare con il servizio clienti BMW Motorrad. Io farei 1. Motorrad. Servizio 1-1. BMW Group Italia. Tutti gli operatori sono al momento occupati. No. La preghiamo di attendere per non perdere la priorità acquisita. Attendiamo sì. Noi. Ma tutti? Pronto? Non tutti? Ce n'è neanche uno. Neanche però. Uno? BMW Italia, buongiorno, sono Raffaella, come posso aiutarla? Buongiorno Raffaella, sono Ariel di Rock FM Milano, una radio milanese. Conduciamo una trasmissione mattutina dalle 7 alle 9 e stiamo chiedendo un po' alla gente se va di sintonizzare. Lei ascolta la radio? Guardi, io le rispondo in questo momento dal centralino della BMW, non so sì. Se lei ha fatto un numero così. No, volevamo chiedere una cosa specifica. Buongiorno, mi presento, sono Roberto Fricantoni, collaboratore della radio. Noi abbiamo questa trasmissione che si intitola Pane, Burro e Rock and Roll dalle 7 alle 9 del mattino e vorremmo chiedere una sponsorizzazione alla BMW, che automobili che noi stimiamo tantissimo. La trasmissione è rock, il formato è abbastanza esatto. Vincente, abbiamo molti radioascoltatori. Una Spider, ecco, sì, che sì. Servirebbe con su scritto Pane, Burro e Rock and Roll. Secondo lei a chi possiamo chiederlo? C'è un ufficio preposto? Allora, io le posso dare un indirizzo mail al quale presentare la vostra proposta, perché questa è la procedura di BMW. Esatto, certo. Per cui è bmw@bmw.it. Secondo lei qual è il tipo di BMW più rock che avete? Cioè, che sarebbe meglio chiedere? Perché non sapevamo se chiedere una Mini. Guardi, però un po' snob. No, magari se è per un target di giovani sicuramente sì. È meglio la Mini. No, però non per forza giovani, rock è anche adulto. Anche da mezza età è rock. No, certo, io penserei comunque più alla Mini, ecco. Mm. Ok, ho capito. Okay. Va bene, ci sta, Pane, Burro e Rock, però la scritta è lunga, sì. La Mini è piccola. Sì. No, ma ci sta. Ma anche questa nuova Mini, bellissima, due posti, questa Spider, sul cofano scritto Pane, Burro e Rock and Roll. Le fiancate anche, stupendo. Grazie mille, molto gentile, prego, arrivederci. Buongiorno. Buon lavoro, grazie. Grazie. So fine. She's the only one that I've been dreaming of. Maybe someday she will be all mine. I wanna tell her that I love her so. I'm through with her every touch. I need to tell her she's the only one I really love. Got a woman, she won't be true now. I got a woman, stay drunk all the time. Away. 'Cause I got a worried mind, sharing what I thought was mine, or leave away. with a guitar's play. I've got a watch you won't be true, no, no. I've got a woman all day, yeah, yeah. Now, now. I've got a woman since I'm all the time. I've got a little woman and she won't be true. I said she won't be true. Come non è, spesso e volentieri a Pane, Burro e Rock and Roll ci occupiamo di precariato, una delle pieghe della nostra società. Il famoso sbarcare o sbancare, sarebbe più bello sbancare, ma diciamo sbarcare il lunario. Uno si arrabatta un po' come può, fa lei d'altra parte, Frick. Un giorno in metropolitana, un giorno tecnico del computer, un giorno babysitter, sono tempi duri. Accade anche nella vita reale, non solo nel mondo immaginario di Frick Antoni, e lo scopriamo grazie allo strano ma vero. Sigla! Vendevo orologi falsi, ma erano troppo brutti. Assolto. Chiamarle patac era quasi un complimento. Erano fatti talmente male i 474 orologi di marca trovati nel negozio di un commerciante catanese che non era nemmeno il caso di condannarlo. Anche un bambino si sarebbe accorto che erano veramente falsi. E così il GUP, giudice per le indagini preliminari di Catania, Laura Benanti, ha assolto, virgolette perché il fatto non sussiste, Orazio Gualtieri, 51 anni, titolare del negozio Pippocina, che si trova nel pieno centro cittadino. Come racconta il quotidiano La Sicilia, il condannato aveva fatto opposizione contro un decreto penale di condanna emesso dalla procura dopo che la Guardia di Finanza aveva rinvenuto nel suo negozio 474 orologi fra Rolex, Bulgari, Cartier e altri, tutti rigorosamente taroccati. Il GUP, respingendo la richiesta di condanna avanzata dalla procura, che sollecitava per Gualtieri 8 mesi di reclusione e 1200 euro di multa, lo ha mandato assolto, come si dice, perché, aperte le virgolette, la contraffazione era così ostentata e macroscopica, leggendo tra le righe, orrenda, da non poter ingannare alcuno circa la reale provenienza del prodotto di cui reca il marchio. Succede veramente, è accaduto in Sicilia. Ho la morale della favola anche per quest'oggi. Ce la dica, mi vengono favore in mente proprio mentre le leggiamo. Mai fidarsi di uno che chiama il suo negozio Pippocina. Esatto, molto giusto, molto giusto. Già Pippacina sarebbe stato più carino. Un saluto alla comunità cinese milanese, sempre vicini, ma Pippocina, come certo. Stai messo? Un abbraccio ai catanesi. Che c'è? Chewing on a piece of grass, walking down the road. How long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in the snow. You don't care, I know. Venture a highway in the snow. days around your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air. In the air. Wishing on a falling star, waiting for the early train. Sorry, boy, but I've been hit by a purple rain. Oh, come on, Joe, you can always change your name. Thanks a lot, son, just the same. Venture highway. Are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Gli America di Ventura Highway, 8:17 minuti primi, la diretta di Pane, Burro e Rock and Roll. Le nostre coordinate sempre piene, ricche dei vostri messaggi, via sms piuttosto che via mail. Nella prima ora della trasmissione ho chiesto aiuto ai radioascoltatori in riferimento a una mail firmata Adriano, di un amico che diceva: rispondimi dopo le 8:15. E adesso tra l'altro sono... Ciao Andrea, no, Adriano, sarai sintonizzato. Lui mi chiedeva cosa ne penso dell'iniziativa Bacini Povia per il 27 febbraio a Sanremo. Io ho detto ai radioascoltatori: datemi una mano, perché io non so nemmeno di cosa sta parlando questo qua. Oh, Adriano, non mi ha risposto nessuno, quindi vuol dire che nessuno sa nulla. Se tu credi sia importante che noi si venga a conoscenza di questa cosa, faccelo sapere, nel senso che ci informiamo, oppure spiegacelo tu. Ho fatto una breve ricerca via internet, ma poi non c'avevo voglia di stargli a leggere tutto a quest'ora, guarda. Già c'ho la scaletta da stargli dietro. Se ho qualcosa di interessante, farcelo sapere comunque, ok? Strombazziamo per una visita medica specialistica. Può aiutare? Boh, speriamo. Alcuni commenti invece riguardanti la telefonata di richiesta di sponsorizzazione di una macchina. Sì, ci ha preso questa bazza, mia fricca. Perché non farci sponsorizzare? Ne abbiamo altre di sponsorizzazioni da chiedere. Se vi viene in mente qualcosa, tipo, secondo voi Pane, Burro, Rock and Roll cosa si merita, segnalatecelo, che noi chiamiamo e chiediamo. Chiedere non costa nulla, no? Visto che sentenziano, guardate che la mini sponsorizzata non ve la daranno mai. Se vi va, vi lascio le fiancate del mio taxi. Grazie. Anche Duccio ha apprezzato il pezzo d'antologia, che è un attentato alle sue mascelle. Secondo voi trasportare calcestruzzo per Firenze con Rock FM a palla e finestrini abbassati per farla sentire in giro è rock? Molto, complimenti. Poi abbiamo un radioascoltatore che va nel panico perché credo faccia la tratta, cioè va verso Pistoia, quindi sul tratto, non lo so, da Firenze a Montecatini, ecco, sul pezzo Prato Pistoia ci perde, e quindi ci fa sapere ogni mezzo minuto se continua a sentirci oppure no. C'era stato un attimo di gioia dicendo: grande festa, oggi si sente anche sulla Prato Pistoia, quindi niente coitus interruptus. Ne arriva un altro pochi secondi dopo: no, vi ho persi, scusate, ci ritroviamo a Montecatini. Saluto anche a Laura. Smontare dal turno e trovare Plant su Rock FM è a dir poco resuscitante. Ah, certo, certe cose non hanno prezzo. Come Clapton, Forever Man. Cosa facciamo? Dialetti? Ok, bene. corso di dialetti tra pochissimi secondi qui su Rock FM. Ormai è ufficiale, ci siamo buttati in questa nuova rubrica dedicata ai dialetti, disimpariamo l'italiano, un po' con la carognetta, perché a Mike Buongiorno gli è andato la laurea honoris causa, a noi no. A Freak no, io non la vorrei nemmeno, pane, burro, rock and roll, non ci sta. Non ci sta. E allora torniamo a viaggiare in Italia con i mille dialetti, disimpariamo l'italiano e torniamo a studiare il dolomitico. Sì, sì, laddove il linguaggio è più vero, è più autentico. È cattivo. Sì. Non siamo più pane, burro e rock and roll, ma pan, bur, i casin. Ciao Prussia. Ciao. Dimmi, bentornati nelle valli dolomitiche. Ricordiamo che il saluto ufficiale è con la testa a te viene meglio Prussia. A noi sembra che stiamo ululando, frega, veramente non funziona. Ma anche quando trovate le sbarbine lì in giro caro Prussia, come va in quella delle Dolomiti? Siamo innevati finalmente. So che attendeva da tempo la cosa. Veramente parecchio. Noi siamo pronti a studiare un pezzetto di dialetto dolomitico con lei. Cosa ci ha preparato per quest'oggi? Beh, visto che abbiamo ricevuto il dono dal cielo della neve, avrei pensato ad una frase inerente a questo. Sì. Al fatto che si guarda nevicare dal bar dove, accompagnati con una buona grappa, osserviamo l'arrivo della cognata neve. Sì. Il paese che vai, usanza che trovi, c'è la neve, esatto. Che fai? Ti spari la grappa al bar a quest'ora della giornata, poi guarda, è la morte sua. È la morte sua. Come può funzionare, Prussia? Siamo pronti. Tu sei al bar con la grappa, entra l'amico, ti guarda e fa: "Oh, hasto visto c'è che nevea?" Aia. Ah, questa l'ho intuita, Hai visto quanta neve viene giù? Esatto. Può essere. Esatto. Sì, visto, sì. Hai visto quanto sta nevicando? Hasto visto c'è che nevea? Hasto visto c'è che nevea? Un'ultima volta, professore, la prego, ripeta. Asto visto c'è che ne vea. Oh, asto visto c'è che ne vea. Perfetto. E fin qua siete bravissimi. Adesso sento già la neve che cade io. Sì. La risposta sarebbe: sicuro farà almeno 2 metri e rimarremo bloccati al bar. Sì. Che sarebbe? Che è la speranza, dice. Esatto. No? Ovvero? Sicuro fai 2 metri e resto un bloccato al bar. Aia. Sicuro? Seguro fai 2 metri. Seguro fai 2 metri. Metri. Bravi. Grazie. E resto un bloccate de bar. E resto un bloccate de bar. Esatto. Dai, era buona. Non è soddisfatto. Oh, seguro. Poi come dice? Seguro fai 2 metri. Seguro fai 2 metri. Sì. E resto un bloccato de bar. Resto un bloccato de bar. Beh, molto rock il. Seguro è anche un po' spagnolo. Seguro. Ci sono internazionale. Delle influenze spagnole. Influenze sì. Ispaniche. Ispaniche. Caro Prussia, portoghesi. La lasciamo alla sua nevicata e speriamo venga giù il secondo metro a sto punto. Ecco, se mi richiamate fra un paio d'ore, sicuro sono resto un bloccato de bar. E lì con la grappetta. La ritroviamo lì alla prossima. Oh! Grande Prussia, grazie. Oh. Non ululi, maestro. Mi scappa. Giorni l'appuntamento con il primo raduno surrealista di radioascoltatori e radioascoltatrici di Pane, Burro e Rock and Roll. Complimenti. Il colpo di scena è che chi arriverà vestito da cowboy e indiano riceverà la propria patente da vero rocker, ma non pensiate che non si deve continuare a studiare. Esatto, perché un vero rocker si tiene informato. Sempre per forza. Esatto, e come si può tenere informato? Come può valutare il suo livello di preparazione? Col test attitudinale che molto quest'oggi bene. La redazione ci ha preparato in onore dell'appuntamento surrealista in tema cowboy. Cowboy d'indiani. Sì, cowboy indiani. Molto anni 50. Sì. Molto infatti anni 50. La domanda di quest'oggi è: quale celebre rocker ha scritto la colonna sonora di un film western? Ipotesi A, Marilyn Manson. Ipotesi B, Bob Dylan. Ipotesi C, Bruce Springsteen, The Boss. Chi ha composto la colonna sonora di un film western? Fate la vostra scelta. Ipotesi A, B o C? La risposta esatta ve la diamo tra poco, e cioè la giusta soluzione a poco dopo.